Scherza che pur lo puoi. Ah, e che scherzi non sono. Ridir le tue bellezze, il breve nero. Vorrei se purtroppo stretta io solo un tal rossor. Ma dirmi a fine, posso io teco svegliare un mio pensiero? Basta dirmi ch'io taccia, il tuo comando adempito sarà. Ma ben rifiuti che il tradermi sarei alla mortità. Più non recarmi offesa che alla legge d'onore so quanti io deggio. Sappi dunque ch'io t'amo e fin d'allora che gli occhi tuoi mi dai per te senza riparo arsi. Ma perché del